ready for this. Omaggio al rap, che dentro ci sentiamo, e di quel che diciamo, noi non ci pentiamo. Omaggio al rap, lo crediamo forte e chiaro, perché questa è la musica che ci fa da faro.